luce del 7 agosto 2009. Dal cantico spirituale di San Giovanni della Croce. Volli perdermi e venni conquistata. Così si comporta l'innamorato di Dio. Non cerca guadagno o premio, ma vuole solo perdere tutto e anche se stesso liberamente per Dio. E questo lo considera suo guadagno. E di fatto è così, come dice San Paolo. Il morire è un guadagno. Cioè il mio morire per Cristo è il mio guadagno. Naturalmente si tratta di una morte spirituale a tutte le cose terrene e a se stessi. Per questo l'anima dice, venni conquistata, perché chi non sa perdere se stesso non sa guadagnare se stesso, anzi si perde, come dice nostro Signore nel Vangelo. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà.